È successo, siamo scusati, in mezza merda. C'erano dei ragazzi, hanno provato a salire, sono saliti di tre sopra, e il quarto sta salendo sopra, l'hanno buttato da giù. Mi sembra, io non l'ho visto che carabinieri, polizia, guardia di finanza, perché però un'altra ragazza hanno detto che dalle guardie di finanza. È rimasto quasi mezz'oretta per terra. Abbiamo chiamato loro, non hanno aperto, però è rimasto per mezz'oretta per terra, poi l'hanno portato con Varella all'infermeria, poi succede che non lo so che hanno fatto con lui. Abbiamo sentito sì, che l'ambulanza, però non lo so, è lui. No. Dopo, poi sono entrati loro, hanno detto uno di loro, la polizia, con i caschi blu. Hanno detto che ha buttato da solo, però in realtà no, l'hanno buttato di giuro su di lui, hanno buttato loro da sopra Sì. e hanno chiuso tutti i cancelli. Adesso non so che fanno con noi. Va bene.